l'è Cibillozzi, ce l'è o no? Astromo. Allora, vecchione. Ehi, poco fa sono entrato, non c'era nessuno. Appena l'ho acceso proprio, c'era bianco, ho detto, vabbè, Cibillotti ce ne sono. Non c'era nessuno ancora. Oh, yeah. Sono stato lo Shan, con una passeggiata. Però c'era troppo brusio, già brutto c'era. E allora sono stato poco, ho comprato due cosette. Adesso sono qua, stavo camminando la sabbia ai gatti. La sabbietta, qua giù, ho le mani congelate. Ci credi? Giusto le parti scoperte sono congelate. Stiamo per mangiare. Ma quale freddo c'è fuori? No, no, no, no, no. Sono io che sono un uomo senza sangue e ho le mani fredde, per quello, Ah, non ho capito. Bene, mi ascolti con la 48. Bene, bene. Benissimo. La 48 è 5 watt, 4 watt, non so. Vabbè. Messo questo per farlo andare un po', se no così. Il microfono è sempre quello, lo cambio, sempre un MP5. Eia, eia. Vabbè, c'avevo solo un apparecchio da far girare, che è fermo da parecchio, ed era quello che dalle con questi petardini, ui, c'è un bambino con questi petardini, pa, se entro in scena io, altro che petardini, lo faccio fuggire. Io ho caricato già le armi in campagna, sono già pronte per domani. La uso la pistola, noi due tiri facciamo. Noi facciamo due tiri, a ver se funziona ancora. Ma spari con i proiettili, vedi? Anche poi il proiettile va su, ma poi prima o poi torna giù. Mi se becca qualcuno a testa, gli fa il buco in testa. Già lo sai che poi anche se spari a campana si fa 2-3 km a campana e becca qualcuno. Perciò io sparo sempre a salve, almeno non è pericolosa. No, non è mai bigliato, mamma. No. Cioè, ho preso una scatoletta da Pasquale con gli assalve, con quella pistola lì. Uso quelli, ma stai scherzando, ci butto il proiettile e ballo, no, poi pericoloso, cazzo non siamo a Napoli, no? Sì, infatti, mi ricordo che da Pasquali, dalle con questo ponte Cesar, quanti Nandi, vendevano le cartucce a salve per pistole vere, cioè 9x21 a salve. Mentre i calibri delle pistole a salve sono tutti creati e usabili solo sulle pistole a salve, tranne qualche eccezione. Per esempio il 380 su una 38 Special funziona. Naturalmente tu saprai che avendo la canna libera tu, no? Mettendo le pistole a salve, le cartucce a salve, a ogni colpo devi arretrare il carrello perché non ha la contropressione per far scarrellare, capito? Mancando la pallottola, capito? Certo che sì, infatti scarrello, ogni colpo scarrello, se no non fa, sì, è la mia 9x21. Bene, bene, ecco, stanno facendo il video più, per carità. 12,50 euro, sono una scatoletta, tanto bene, ce ne saranno 20, se non sono 10, manco contatti gli. Ma di solito sono o da 25 o da 50, i pacchi che conoscevo io. Sicuramente hanno la chiusura stellare, no? La chiusura a stella in punta, no? Piegando l'ottone. Tipico, tipico. Mi aveva spiegato Pasquali che le cartucce vere per pistole vere, cartucce a salve per pistole vere non sono di libera vendita. sono di libera vendita quelle cartucce a salve per pistole a salve. Infatti ho messo poi a porto l'armi, perché una volta non me ne ha dato. Allora, ho controllato una scatolina rotonda in ferro e ce ne sono 20. Eia, sì, allora le leggi sono rimaste uguali. C'era quella particolarità. Bene. Mi è arrivata la pasta ai frutti di mare, insomma, budendi, tra un po' come la mangio. Non c'è nessun canale, mi pare PMR no. Al 23 un attimo fa non c'era nessuno. Ma tuttora non lo so. Ok, ti ho sentito chiamare IS0 Doveri a 787.5. Sì, R7 Alfa, quello si chiama. Sì, intanto chiamo, se non c'è nessuno, se ho di solito. Faccio due chiacchiere con Domenico di MN, però stasera no. Non l'ho sentito. A meno che non abbia chiamato sulla rete, l'ha spento. Io ho le radio separate, 820H. Da una parte il VNU e il 275H sulla Rai Zero, capito? In modo che ce li ho separate, no? Sì, no, non te ne danno Pasquale. Oh, assolutamente. L'anno scorso ero andato perché ero in zona, ero al mercato, e poi passò a Pasquale, sempre di questo periodo, a prendermi un po' di cartucce per dare due colpi la notte di Capodanno, con lo stesso in campagna. Mi ha detto, mi conosce? No. Devo registrarle, devo mettere il numero del portorame, che ho dato, grazie, gli ho detto, vabbè, ma sono andato. E me li ha dato il mio vicino perché c'era uguale, capito? Cioè, me li ha sparato la sua. Adesso quest'anno l'ho tutta pulita la mia. Me la porto in campagna domani mattina. E poi domani sera abbiamo due colpi. Giusto così per farla funzionare. Niente di che, visto che sono in campagna, sono qua, è un casino. Come si intende la bittura, mamma mia, come sto? Abboggiami. Ma qua sicuramente, nonostante il divieto, qualcuno sparicherà, niente di grosso, anche perché ricordati, questi divieti li fanno per colpa di quei babbei come quei due che hanno arrestato o denunciato, c'era l'articolo sulla Nova, avevano bombe napoletane, cipolle napoletane autoprodotte, praticamente bombe. Appoggiami. Su Ponte Cesar mi. Su Ponte Cesar? Aspetta, va. Su 431237.5, non sento niente. Ehi, ha chiamato uno a questo, mi metti la faccia in culo. E ogni tanto anche lì c'è qualcuno che sparella. Ebbene, dicevo, che questi che hanno beccato sulla Nuova, due diciottenni, avevano bombe autoprodotte per giunta, quindi oltre che la detenzione, fabbricazione di prodotti esplodenti, quindi, ma erano bombe, non si possono usare in città quelle cose, se ne fai scendere un infarto a tutti. Ma non mi sapete niente cosa ha sequestrato la Guardia di Finanza, allucinante. Cazzo, un arsenale, lì da, mi sembra che siano i cinesi, boh, non so, cazzo, un arsenale hanno sequestrato, ma di tutti rimanere in nera, tutta roba arrivata dalla Cina, ma bombe barocca, esci Maria cara. Ehi, o dalla Cina o da Napoli, I popoli che sparano di più, cinesi e napoletani, come diceva il film 32 dicembre, quello con Pazzaglia, Cannavale, eccetera, eccetera. Dice, ci sono tre popoli che sparano a Capodanno, sono i cinesi, i messicani e i napoletani, no? Però dicevano che un cinese spara per un cinese, il messicano spara per un messicano, ma il napoletano spara per 10 cinesi, 10 messicani e per 10 napoletani messi assieme. Non so, però non si può fare una cosa del genere, capite? Perché è molto pericoloso. Cazzo, mica erano grandi queste, sembrava, ce n'era una, sembrava un pallone. Infatti quelle sono bombe, a tutti gli effetti. Fai, fai. Come fai, fai? Ho capito che stavi mangiando la pasta. Dicevo, quelle grandi quanto un pallone sono bombe vere, quelle puoi portare in cava per, capito, per fare i fori nella roccia. Quello, perciò fanno i divieti, non per i miniciccioli, quelli là, ma anche magnum. I magnum, mefisto, quelli rossi con la capocchia che si accende strisciandola sulla, sul coso degli svedesi, no? Il problema sono quelle bombe lì, bombe vere e proprie. Quelli devi fare in zone fuori, lontano dai luoghi abitati, perché sennò può sfasciare i vetri delle finestre anche me dall'onda d'urto. Non so. Ho sentito un fischio basso, chi è? Mi sembra di sentire un fischio basso, vabbè, io sto usando il baracchino omologato, non so chi è. Non sento nessuno io. Cosa ti stavo dicendo? Oh, mi sono scendi. Vai. No, non ci voglio andare. Ancora no. Aspetta. Com'era quella storia dei cani di Ivan? Non ho capito la battuta dei cani. Io i cani non li ama, li sequestra. Vabbè, li sequestra quando succede qualcosa, quando non sono in regola, microchip, non è che sequestra i cani tutti, no, quando succede qualcosa, o la zoofila o quello che è, non so se esista più la calabria cani. No, non penso, se ne occupano loro e le guardie zoofile, penso, boh, non so, non è caso mio. Io ce l'ho il mio e lei come un bambinetto di 6 anni. Adesso mi domani, siamo in campagna, lo porto, così gioca, capito? Sta tranquillo e sereno, non c'è problema di niente. Tutto qua. Che ore sono? Sì, cazzo, già le 7 sono. Bubù. Passata la serata parzialmente perché sono uscito, però troppo brusio, troppa gente anche, vabbè, alle casse non è che abbiamo aspettato molto. È tutto per le feste, poi mi Natale è già passato, il grosso delle spese l'hanno fatto, così giusto le cose per gozzovigliare Capodanno stanno comprando le persone. E poi il nulla, c'è l'Epifania, che tutte le feste se le porta via, per fortuna. L'Epifania manco mi interessa, ma mi interessa che passi domani e poi si rabbia le luci. Stamattina una macchina di roba l'ho scaricata in campagna, torna il rabotto domani. Da pranzo poi, figurati tu. Pranzo e cena. Vabbè, però devo andare. Basta, mi ha detto, come dicete più a me, lasciatemi santa pace, perché io non devo andare più da nessuna parte. Ma poi mi devo ricordare, dopo mangiato, che ho il telefono scarico. Dovevo mettere in carica, cappa. E io adesso, allora di pranzo, caricare. C'ho, in tutte le stanze c'ho il connettore per caricare il telefono. L'applicazione, siccome tiene il GPS acceso, si mangia la batteria abbastanza in fretta, ho notato. Scusa Marco, scusa che mi ha chiamato mia moglie, cosa hai detto? Che quell'applicazione, CBTalk, siccome tiene il GPS acceso per forza, ciuccia batteria. Sì, infatti io entro e saluto, non amici più di tanto. A volte guardo se c'è qualcuno, saluta, entra, saluta, boh, ma cazzo mi fa la batteria, ma ne mangia, capito? Poter fare una cosa ben fatta, lo devi tenere col caricatore attaccato, però vuole lungo, i miei sono tutti corti, una rottura di palle, anche quella, però è una cosa che serve. Se sei in giro, serve, però c'è meglio il baracchino per fare due chiacchiere, come ho già detto, però anche quella è una buona cosa. Continua a non entrare la gente qui. Chi la gente la mai? Non entra più da nessuna parte. Infatti io già questa estate già inizio a smontare un altro po' di roba e metterla dentro le cassette per tenerla in mezzo alla polvere. La conservo e basta. Sto mangiando spaghetti a frutti di mare, però non freschi, però congelati. Eppure per essere congelati sono buoni ancora. È gradevole, specie se fosse fresca la roba comprata al mercato. Vabbè. Accendo, chi c'è, poi lo spengo, però adesso mi scaricato la batteria. Eia, mi ho sentito adesso. Ho capito chi sono. Guarda, l'altro non so chi è. Questo dovrebbe essere Marino. Ieri era entrato Pomponi su 23 a parlare. Dopo un po' fuggì generale, hanno bussato, c'ho il telefono, c'ho gente, noi. Io sono qua, ma futuro da male 23. Io sto qua e servo chiacchierare, perché sembra che vai a disturbare il questione degli altri. L'ho detto, lo penso e lo dico, non me la fotti nulla. Giustamente loro non sono venuti qui a fare gli auguri, tantomeno io sono andato lì a fare gli auguri. Vedo che non ne ha fatti nulla, quindi buon viaggio. Non fa auguri a nessuno io. Lo faccio con chi ho un rapporto, con chi mi sento, con chi mi vedo. Non conosce nessuno io, gli auguri oggi di qua. Se siamo tutti in radio, gli auguri si fanno. Ma nello specifico io non li conosco, cosa, a chi devo fare gli auguri. Buono. Mangiando stai. Eia, dai, lo finisco. Poi se entra qualcuno bene, se no si la bina in luce. E la stessa cosa ti dico. Io mi c'ho un bacchino acceso. Se entra qualcuno, fino alle 7:30 sono qua. E se no, auguri a tutti, buon Natale, felice anno e a pigliare le ruote. In bagno, bevendo molta acqua si fa tanta plin plin. Si fa tanta plin plin, sì. Meno male che io già bevo acqua. Certi bevono bene, ma bevono birra, vino. Si fanno il litroccio, il litro e mezzo, forse anche 2 litri al giorno. Già non è un problema mio, e peggio quelli che usano i superalcolici. Ci sono ragazzi anche giovani, iniziano da mezza serata, vodka, ciu, rum, quello che vi capita, basta che sia alcol. Non lo so, aspetta. Per 5 watt. Ecco qua. 5 watt. Come senti? Eia, dopo se vuoi proviamo un canale PMR a nostra scelta. Perché da tanto che la batteria è ferma, ogni tanto la ricarico, però non vorrei che avesse crolli di... Sai, quando la carichi e non la usi, alla fine perde un po' la sua capacità. E vorrei provare dopo. Io non l'ho. cancellate, porca puttana. Vabbè. E io cancellate, vabbè, non ce li ho. Già ce li ho io, a voglia. Io sono, non sono canalizzato, capito? Quindi bisogna tenere la frequenza per provare. Conosco solo quella lì, quella monitor, il canale 7 e basta. Ah, buoni questi spaghetti. Sono soddisfatto. Guarda, ti dirò, io non amo gli spaghetti. A me piace la pasta tipo tortiglioni, penne, mezze penne, che sarebbero le penne terigate. Gli spaghetti come pasta lunga, anche se sono i numero 3, quelli sottili, sottili, mi piacciono meno. Ma ti dirò che, caspita, ho questo sughetto di mare, erano buoni, veramente. Abbiamo pagato poco e niente, abbiamo pranzato in due. Roba in scatola, no, quindi domani non ce l'abbiamo. Spaghetti alle vongole con cozze e vongole, però prepara mia moglie, prese le cozze quelle fresche, le già pulite, messe in frigo, e le vongole fresche, al mercato, e preparo il condimento, più buono, se lo prepari tu, una cassata, ci sono te capito, olio prezzemolo, peperoncino, olio d'oliva buono, fai un bel soffritto, se lo fai in bianco, se no ci metti un pochettino di polacco, se lo vuoi fare in rosso, fa più sughetto, però più buono di quelle comprate così già pronte. Sì, quello era un misto mare surgelato. Quelli in blister, no, che vedi trasparente, no, vedi un prodotto praticamente, sono sottovuoto nella plastica. Per dire, già così era buona, però fatta in casa appunto è ancora migliore. E già lo faremo, dai, un giorno che abbiamo più tempo. Caspita, ci stava bene anche un bicchiere di vino bianco con un piatto a base di pesce. Bicchiere di vino bianco, peccato che io non ami il vino. No, io ho preso per queste feste 5 litri bianco e 5 litri rosso. Ce n'è ancora, vedi? Spero si faccia fuori tutto domani. Pranzo e cena e così è a posto. E poi acqua. Iniziamo l'anno con l'acqua, se no è un casino. Non fa. Meglio niente. Vabbè. Com'è quel detto? Qualsiasi cosa fai tutto l'anno, il primo dell'anno lo fai tutto l'anno. Tipo chi inizia col vino rosso il primo dell'anno, vino rosso tutto l'anno. E vabbè, non è il mio caso. Giusto così, quando sei in festa e compagnia, lo bevi il vino a casa. Se no, sono un mese che non vado manco la nicchia, figurati. Infatti me l'ha chiesto Antonello, che no, sto passando la rivolta che passavo, aspetta, bevi questo, bevi quest'altro, no. Lascia perdere. Campania, con mio vicino, siamo andati a mangiare il cane, un cercano lì, io ho fatto due cosettine veloci, e lascio la roba in freezer, il frigo, quella che andava in frigo, la roba congelata abbiamo rimessa in freezer, per domani. La gomma, decidi di buccare la bicicletta e rimaniti giù a manubrio. Attenzione amico, dammi Roger, si ascolti la città di Udine che chiama, cambio. Udine ci sono parecchi orecchioni. Grazie amico, ti ascolto molto forte, ti ascolto molto forte, la propaganda è molto buona. Lo so, perché io sono abituato a fare il banditore, capito? C'ho il megafone e quindi sto sempre a voce. Andrea Fabrizio, che fine avevi fatto? Vabbè che anche noi non stiamo più entrando. Ah, io sono sempre in agguato, vi ascolto, sia qua che là, lo sai, io sono sempre in ascolto, anche se non ci sono, però sono presente. Ciao Claudio, ciao Marco, me l'ascolta, chiamati Claudio. Io. Mi provo a fare chiamato su dove sei piatto, non ha risposto nessuno. Ho acceso il baracco, solo che sono là. E su 5 watt sto andando. Aspetta veloce. Lo portiamo a 10, se no è troppo basso. E non fa. 10 watt. Niente, ho acceso, c'era Marco e ho detto che facciamo due chiacchiere, ma faccio scaldare la radio. Fra un po' spengo tutto e si riaccende martedì. Ah, guarda, c'era tutta la sera che stava chiamando, quello di Oschi. Aveva fatto 2.000 chiamate, ma zero, nessuno l'ha risposto. Ma chi? Barracuda, Antonello Barracuda. Oschi di. Ah, oh, chi lo sente Oschi di qua? Oh! Mi ha chiamato sulla rete, già l'ascolto, Fabri. Sono una viugana oggi, la verità, l'ho sentito Domenico chiamare sulla rete 0. Anzi, ha chiamato anche sulla rete 7 alfa, però non ne avevo voglia di rispondere. Ho impegnato, e allora niente. Ma ormai la sera ci sono, se mi senti. Addirittura mi sto in poltrona col portatilino, passo tranquillamente sia sull'R7 che sull'R0. Perché sull'R0 uso il trasporto di Watt, sull'R7 Alfa la retro casa, ce l'ho davanti, itti, capite? E quindi rimango sino a tardi, a volte non vado, tutto domenico. Però questi giorni sono stanco. Sono alle 5 in piedi oggi. Ecco. No, io già vi ascolto, non tanto già ce la faccio, devi stare ascoltando. No, 5.25 non sento più nessuno, ma cosa hanno cambiato per questo momento? L'hanno cambiata. No, stiamo più passando, si usa proprio raramente, la macchina con la 7 alfa come monitor. Le 7 alfa e 6.25, 145 6.25, cioè non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Come monitor usiamo i due punti praticamente, 6.25 che è cittadino e l'R4 che è cittadino lo stesso, oppure l'R7 alfa che è Iteri, anche con i portatilini dentro la città parliamo tranquillamente. Monitor poca roba, non lo stiamo più usando. Gamba gamba, avanti Marcolino Connor. Ho sentito uno sotto che chiamava, vediamo chi vuole entrare. Nulla, non entra. Compagno Fabrizio. Allora Marco, che si dice? Ehi qua, vabbè, feste, non ho niente da festeggiare, quindi non vedo l'ora che passino, dai. Ehi vabbè, un giorno come gli altri, tutti aspettano a fare questo grande cenone. Io le aragoste le mangio quasi ogni giorno, le gambe lo stesso, le usche lo stesso, i gattati, capito? Noi mangiamo tutto quello che vogliamo, come le donne incinta, quando ci vanno a buio andiamo a se recuperare. Eh beh certo, non bisogna aspettare il cenone, no, se a uno piace una cosa se la compra prima, e hai voglia. Mi cazzata c'è il gozzo di Valgerone, per carità. Per carità, sono come un altro amico, ma è un lunedì normale, è un fine anno, basta. L'effetto effettivo è martedì primo dell'anno, domani è una giornata come gli altri, infatti lavorano tutti. I miei colleghi, come hanno lavorato l'anno scorso, lavorano adesso. I marketing sono tutti aperti, quindi le banche sono aperte, ma è tutto aperto, cos'è? Niente. È il 31 di dicembre, magari ce ne affutti. Noi volevamo stare per conto nostro, io sarei stato pure contento, se non che mamma ha chiesto a mia zia, dice cosa fate a Capodanno, possiamo venire, ha preso decisioni anche per conto mio, capito? Non chiede, non mi interpella, non chiede nemmeno se voglio venire, nulla, è tutto d'ufficio, capito? Tutto dovuto. Sì, vabbè, allora siete soli per stare in compagnia, anche noi siamo soli. E qui c'è una campagna, tutti assieme, c'è altra gente, e siamo in compagnia, anche se ti dirò, io ho abituato proprio a farmi la pennichella, divento un mutone in garage quando alla notte, anche perché ti ripeto, siamo da pranzo, quindi siamo da pranzo, ho visto stamattina c'era già roba appesa nello sgabuzzio, quindi sicuramente tutta roba da cucinare, da fare arrosto, torra, porchetto, agnello, gamberoni, sciocchezze, batterie. Per carità, avanti Fabri. Allora, poesia, no, io mi domani mi hanno invitato lì a Palleluia, un mio cugino, ma stato perché è una persona che merita, cioè non ho mai cercato niente. Mi hanno invitato lì in un ristorante, hanno organizzato lì, capito? Mi sono portato una compagnia, sì, sono passato in 38 oggi, ieri notte gli ho prenotato una, così mi fa compagnia, non vado da solo. Bene, ho fatto Marco. Bene, bene. Com'è questo tuo cugino? Di destra? Sì? No, di quelli che là fuori, capito? C'hanno i terreni lì, terreni famiglia, carciofi, di tutto e di più. Lui non è, lui è per mettere a testa in giù, capito? Lui è come quello là a me. Ah, come Dio Benizzo. Mamma di turchi. Allora, da poco mi ha fatto gurri due, gli dice, zingare, dentro la campagna, prendi i carciofi e la cassetta di massari e gli ha fatto sentire i pallettoni. E per evitare problemi più gravi è meglio sparare al lardo salato, capito, a sale grosso e poco friggi me, vai Claudio. Io so, sì. No, vale a Valledoria, io ci ho lavorato per un bel po' di anni, Valledoria, Vidalba, Santa Maria Covina, ti posso dire che sono dei grandi lavoratori, li vedi già operativi alle 5 del mattino, al buio, non ne hanno problemi, capito, è così, è così. Lì se avevo bocce in fuoco e si zingari, ladri, per carità. Oppure sono anche buoni, capito? Perché se vai e dici, ma è ladro e carciofi, vai, te ne danno una cassetta, capito? Ma se ti vedono rubare, si incazzano, perché guarda, a me va bene, mi conoscevano tutti, mi conoscono ancora tutti, perché me la sono fatta portare per Natale una cassetta di carciofi da Valledoria, il mio collega, mi ha detto, ecco qua la cassetta di carciofi, la cassetta di carciofi l'ho voluta, ma con una lira, infatti l'ho telefonato per ringraziarlo, figurati, non cosa vuoi che sia per loro, con tutti i carciofi che ci sono lì, ha dati 10 carciofi, mettete in una cassetta, la bufandi, sono persone molto in gamba, però se ti vedono rubare si incazzano, come il periodo dei meloni e la stessa cosa, uguale, precisamente, tu vai lì, ma va melone, pronti, beh, prenditela la cassetta, portatela via, non fa né caldo né freddo, però se ti vedono dentro la campagna, dentro gli orti a rubare, si incazzano, capito? Giustamente, quelli si fanno il culo, poi tu pensa, sono mio nonno, la fatta mia madre, non so se era di Valledoria, quindi, e giustamente, cazzo, noi travagliamo, ci facciamo il culo, eh? E bene, io ci ho fatto i carciofi già fatti, cazzo, sei vulgo, ma sei vulgo fulgo, baro. Ma tu immaginati, ma io, ti ripeto, ci ho lavorato, quando preferiscono i carciofi, che puliscono tutto e tagliano i cardi, no? Ma se non te me ne hanno regalato un anno, addirittura anche fatti in barattolo, sott'olio, di tutto ti regalano, però non vogliono toccare niente, capito? Perché loro i cardi poi passano la ratto e si buggano in tutto. Però siccome sanno che piace, allora li mettono nelle cassette, quando vai e dice cardene voi, dammeli un po', tenete una cassetta, capito? Tenete una cassetta. Però se ti vedono dentro, ricordo io uno, a Sagioma e c'è Vendegene, capito? Poi due meloni. Facciamo scusa un attimo. Cioè, qua è proprietà privata, non è che tu devi entrare e farti meloni. Vieni qua, mi ci siamo chiamati, me ne dà due meloni. Io te ne do una gaccetta, non me ne putti nulla. Ma chi deve entrare? Magari calpesti roba che non devi calpestare. Tu cosa ne sai se hai seminato, se abbiamo messo altre cose? Tu ci passi sopra e fai danno. Invece lo chiedi a me, vieni da oggi e io te ne do una gaccetta di meloni. Non me ne putti nulla, si incazzano un bel. Allora, poi ti sei benissimo. E poi quando sono in piena produzione mi lasciano anche nel campo, sai, quando scendevo mi mandavano messaggio, mi guarda, io scendevo con mio amico, io mi dicevo una cosa a fare dura, aiuto, abbassano la radio, la mia station, tutto cargo di meloni, hai tutto a finire che se mi vuoi mi metto la multa e sono a carico. Però sai benissimo lì quando c'è la prima produzione c'è tantissimo, guarda, mi dai due meloni e te li dà, però come hai detto tu, entrano lì, magari come hai detto tu, cioè, hanno piantato altre piantine, tre cose, tu calpesti tutto al buio, fai danno e gli hai rotto i coglioni, soprattutto gli hai rotto le spalle di tutto l'altro che stanno piantando la mattina, e la sera, e purtroppo è così. Avanti Marco. La biocco. Mi sta venendo un abbiocco di sonno che non vi dico. Allora, rapito, io avevo per domani notte, me l'ho prenotato una bionda. Cazzo, no, io sento la vestita, no, io brava ragazza, capito? Anche io sono bravo ragazzo, non dormo. Ma che cosa ci vuole? No, lì sono così. Anche a Badesi, a Trinità, a tutte le parti. Poi quando finisce per dire la stagione, l'ultimo mese che puliscono tutto, a seconda ne rimangono in terra di quelli magari un po' più maturi, eccetera. E chiamano loro per passando, Milano vieni voi. Ha fatto danno due o tre cassette di quelli un po' maturi, a fare a macedoni, a coso. E quanto ne ho mangiato, cazzo. Un bel. Però, ti ripeto, se ti trovano dentro la campagna, ti c'è bideggio. Ti picchiamo forte. Perché lì hai visto come sono le campagne, no? I terreni, non campagne. I terreni sono tutti aperti. Perché entrano qua i trattori, escono, caricano, fanno. Quindi non ne hanno problemi, anche perché si conoscono tutti. Però l'importante è che tu non vai a disturbare uno con l'altro, vai a rubare uno all'altro. Se glielo chiedi, loro non hanno problemi. Ci sono certi orti lì, di finocchi, lattughe, cose, come si chiama, cipolla, sera, di tutto. Io sempre la verdura, sempre lì, ma a comprarla, andavo a comprarla, poi siccome mi conosceva, e vai che la fatti lì, ti danno tutto quello che vuoi, però l'importante è non sei ladro. Allora, poi molte volte in quei terreni vicino a Santa Maria Covina, prima di entrare sulla destra, sulla sinistra entrando, l'ho fatto un sacco lì. Una volta stavo rientrando, eravamo con mio amico, stavamo a pranzo attento, un altro con un suo parente. Abbiamo tagliato, abbiamo perfugato, saltava la Covina, poi siamo usciti per andare lì a Paledoria. Abbiamo visto i trattori che stavano togliendo le patate. Sì, ho fermato, ascolti, che va bene, le ho fatto le patate, certo, tre casse di... anzi, due ho preso io e uno mio amico. A me mi ha chiesto 10 euro, a mio amico 6 euro, per una cassa strapiena di patate a trattore. E sto dicendo che ho portato a casa di tutto di più. La Vanetti gli ho fatto una scolpacciata, li tagliavano davanti, gli si rotondi. Per carità, che buoni, dolci. Sera, lattuga, cavoli, finocchi, di tutto, sempre. Perché lì, proprio dove hai detto tu, entrando poi a sinistra, ci sono i capannoni, no? Dove c'è Agri Valedoria, tutti quei capannoni che fanno, che mettono la recesta e i carciofi per poi fare, arrivano gli articolati e li portano in continente. Lì c'è di tutto. Fava secca in busta, io sempre li compravo tutto lì, capito? Perché c'è uno che conosco. E te la hanno, non ne hanno problemi. Se te la vuoi regalare, te la regalano, se tante volte, mia moglie, ma non c'è un fave, vale lui a fare secchi, a fare le bigiate. Passavo lì, fa venire in busta, ehi, quanto ne vuoi qua? Allora, una busta, siamo in due, per mezzo chilo. Quanto è? Te vai, girami le balle, capito? No, proprio così a quelli veli, no? È gente veramente brava, è gente che lavora, è gente che si alza molto presto la mattina, molto presto. Però noi devi venire a fare un burro, che sono mari, eh? Lui, è fatto di me. Avanti, Marcolino, Marco. Ma voi c'è che l'ha maiato, una caggiatura di Andrea, ma che ne so? Ecco. 25 sono, 25 minuti mi preparo, vado a sistemare il cane, anche se è uscito tardi oggi, anche questa roba stamattina era anche in campagna, non sono portato in campagna, adesso lo porto, però farò poi pipì, e dopodiché ci mangiamo una cosetta, mi va riesce alle 9 oggi, tanto un altro se l'aspettavamo, lui ha scelto l'aria. E poi stanotte mi avrò letto presto, usciuga, stagniamo che l'ho messo le due, usciuga. Purtroppo è così, quando c'è sempre il lavoro è normale, no? Sì, sai, ma c'è qualche programma così. Allora, lui dice Marco, come si dice, l'abbiocco gli è sceso, e poi è andato a mangiare. No, lui mangia a quest'ora, capito? È lì il problema, che già c'è la stanchezza pomeridiana. Del pomeriggio, no? Perché a chiunque viene un po' sonnolenza dopo pranzo, ma quelli normali che mangiano all'una e mezza, alle due, va bene, io di solito pranzo alle due meno quattro, alle due, l'una e mezza, dipende. E tu immaginati pranzando adesso, di solito alle sette e mezza, è chiaro che ti viene sonno, è così, è così. No, io su quel cano bel parte. Un bel tardi, ieri ho fatto lo stesso lavoro di rabotto e alle 5 mi sono svegliato perché io a quell'ora sono ancora abituato ad aprire gli occhi, non ho preso più sonno e nulla, alle 6 e mezza mi sono uscito col cane per fare i bisogni, cosa che non esce mai lui prima delle 8 e mezza alle 9. E poi sono rientrato, sono andato a prendere il caffè alle 8 e un quarto, 8 e mezza, poi mi sono rientrato a casa e poi alle 10 siamo andati, 9 e mezza, 10 e un quarto siamo rientrati in campagna e siamo rientrati a mezzogiorno e mezza. E Gaiese, beh, quando c'è impegno, sono io all'una e mezza, alle due, o alle 11 ero già a letto, che volevo passare alle 5 e mezza la mattina. Allora, poi tu invece di stare buttato nella televisione, puoi stare alle 2, alle 3 di mattina, attaccata alla radio? No, Fabio, io non giocavo, grazie a te, mi stavo dicendo lo stesso, no? Fai radio, la mattina presto, no, non giocavo, e poi... disturbi, cosa come fa radio a casa Bozzi, no? Mi senti adesso nello specchio, una fanculo, stai a voce, anche l'aria rientra tardi, ha bisogno di riposare, io c'ho la stanza in mezzo alle, ho tre camere da letto in fila praticamente, capito? C'è la mia, poi c'è in mezzo c'è la sala radio e poi c'è la camera da letto di radio, c'è in mezzo. Quindi si sente tutto, no? E poi non l'ho mai fatto, Fabio, né dalla radiomatore né dalla CB, non me la fa tenuta. Io se posso rimango a letto, se posso, però quando non ho più voglia di stare a letto mi alzo come stamattina, capito? Però sto crollando, vedi? Mi sto sapendo di luci pure a me, però resisto, devo cenare prima, poi guardo un po' di TV e poi se mi viene sonno mi curico, me la fa tenuta. No, ma io sono per le 6 di mattina in radio, lui, possibile. Questa mia mi è capitata quando sono in campagna, così c'è un po' di preparazione, faccio qualche collegamento in 27, così, ma poi capita qualche prova, per fare tutto a bene. Ma altrimenti, tipo questo locale avete di mandare a ma così. No, già questo locale, né questo locale, né preparazione, né niente, Fabri. Non l'ho mai fatto, ti ripeto, questo periodo ancora meno, che sono a casa. E ho ancora questi sintomi, mi sveglio presto, apro gli occhi, controllo la sveglia, controllo la giornata, ma perché ti svegli? Cioè, mi sveglio. Mi sveglio, io non ho mai avuto sveglia, quell'ora ho sempre aperto gli occhi, puntuale, mi alzavo, pronto, lavato, pulito, ordinato, divisa e a travagliare. E quindi ancora oggi ho questi sintomi, capito? Piano piano già passa e cosa vuoi fare? Ma comunque quando eri abituato a starsi presto, poi dicevo gli orari e voi è molto assoluto, anzi se stai troppo a letto stai male, a mal di testa, tu vuoi trovare, tu mai il fisico abituato a quel tipo di tra, capito? Anzi, e devi svegliarti presto perché stai meglio, perché se poi ti abitua a due tipo di leoni, di voi, capito, ti stai male. Infatti è quello il problema, io sono talmente abituato, ero abituato per 30 anni ad alzarmi a quell'ora, che prima che passi, infatti non riesco a stare a letto, c'è anche se non dormi a letto, no, non devo alzare, mi alzo, faccio la doccia, mi cambio, stamattina non sto fatto così, non sapevo cosa fare, visto che il cane era sveglio, perché di solito dorme. E poi io andiamo a fare un giro, ho visto si è alzato, è venuto, l'ho portato, un'oretta, ho fatto un giretto, si è laggiù, campo sportivo, poi sono risalito, un intore che non ti dico, sembrava che avesse piovuto, e poi mi sono rientrato a casa, sono stato un pochino, e poi sono andato lì al Fris, in via Tempio, ho preso le sigarette, ho dato un'occhiata al giornale, ho fatto colazione, a mia moglie e poi alle 9:30 mi ha chiamato il mio vicino in casa, mi ha detto facciamo, scendiamo in campagna, ma io scendiamo in campagna e siamo rientrati a mezzogiorno e mezza. Allora così, quando è abituato, non c'è niente a fare. Gappa, esce adesso c'è Marcolino, dove sei Marco? Io ci sono caramaiato da Giorito, anche giù dove è Gabriele. Allora, c'è dormito in terra, mentre uggane. Cescio, che... Ma la vina ci ha fatto, e si abbidere, no che... Perfetto, sto strumento è 440.000, vabbè ci hanno appigliato 2 zentero bianconi, ma... facendo la comparazione strumento del 440 del Smith, no, che c'è SWR Power, 10 watt sta segnando nello strumento, 10 watt sta segnando nel wattmetro della Kenwood, watt 230, vediamo scala 200, 5, 10, esatto, perfetto. Perfetto, mi cojado gioco, guarda. Cosa c'è? Gaggiudo, sì. Cojado gioco, mamma mia, sono quel covacco. Ma, tutta la notte lavorando, facendo carciofi, banane, eccetera, eccetera, mentalmente, sai che cosa devo fare? Sono stanco, ma chi è riferito questo? A qualcuno che conosci o a noi? A me che cosa stai dicendo? A me, sono mentalmente stanco, porca miseria, non sento neanche a Marco, come mai? È strano, oggi mica ha mangiato bistecche Marco. Marco era qua, non so. Marco Conno, ci sei, imbarrato. Ti stavo aspettando da ieri come un imbecille per riuscire a fare una passeggiata, invece niente. Mi ha lasciato solo come un cane. Io poverino volevo cercare una moglie. E te Fabri, arrangi a dire come ce l'ha fatto bene. Io vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, se no ritenetevi salutati, ok? Vai Fabri. Guarda, tanto sto chiudendo anch'io, adesso proprio sono le 8, devo uscire un attimo a fare una commissione veloce. che ci sentiamo qua, buon anno, buon tutto, salutami all'aria. Ciao Antonello Pomponio, stiamo bene anche te e ci sentiamo alle prossime. State bene, avanti Claudio, anche io chiudo. Ciao Fabri, guarda, tante cose belle anche a te, buon anno, per domani. Se ho 5 minuti accendo a ver se c'è qualcuno, se no c'è abbigliare un guasio. Antonio, se ci sentiamo dopo, c'è Marco, non so se è addormentato. Oh, mi ero addormentato di brutto, seduto sul divano, stavo pure sognando. Isso va, quello sta sognando donne, mi barrato. Piatti porto io a donne, il primo dell'anno, domani. Dai, ci sentiamo, ciao Antonio, ciao Fabri di nuovo, ciao Marco lì. Se ci siete entro dopo, che vado a portare il cane, ciao. E io, ciao, grazie, ci sentiamo, stati bene. Saluto di Fabrizio, auguri anche a te. E io, ciao Antonella, stavi bene, e non ti imbriaglia. Ah, ciao a tutti, ciao, buon anno anche a voi, dai. Lui Antonio, proprio ero seduto col braccio che reggeva la testa. Dovuto, mi sono svegliato di soprassalto sentendo le vostre voci, ma dormito ero, c'è successo, e dopo pranzo mi viene la biocco, dopo mangiato. Ma tu sei una cosa esagerata però, cazzo, ieri che ti sei paralizzato, oggi sono andato dosciando, ho fatto la commissione, caro, sono goduto accancarato. Oh, e tu cosa fai domani notte? Orgia, bagordi. Domani? Sì. Domani non so mai cosa cavolo fare, la verità. Non so se stare qua o se stare giù da mia sorella, anche perché è arrivata la cogliona di turno nel condominio, capito? C'era lo stress, imbarcato, ma via da bozzi l'altro giorno. Ieri penso a te. Quindi, perché ci sentiva le sedie, i tavoli, i mobili che spostavo. E ti lascio la sala cantare, capito? È inutile stare là di peso a certe persone. Sarebbe inutile, il marito ne aveva la faccia in terra. Perché c'aveva la testa in giù che non ne poteva più, e quindi a un certo punto non ha così neanche risposto, ho lasciato cantare e basta. Tutto lì. Però se domani mi gira i coglioni, stai tranquillo che gli faccio fare tutta la scalata, tutto un pezzo gli faccio fare domani. Quindi, domani mi ha acciappato, domani gli faccio, sai cosa faccio? Mi incialino bene, come sale sopra, domani ce la butto la scala. No, domani fa una cosa, metti le casse degli altoparlanti dello stereo poggiati sul pavimento, no? Proprio con l'altoparlante con la faccia in giù, e metti musica a tutto volume tutta la notte, a fare le stesse di testa. Ma no, non è che faccio quello, ci sarebbe il collo, ma l'unica cosa che posso fare è, cosa ti posso dire? Rimedi, compro un po' di quella, come si dice, quella giggio che si usano per gli scherzi, no? Quel profumo puzzinoso, in fiale, si compro quello e glielo metto attaccato alla porta. Stai tranquillo che domani se ne da quella appartamento se ne fugge tutto ricco io. Perché glielo sparo qualcosa, con quella paletta che si usano per i vecchi. Glielo sparo lento, alle 3-4 del mattino. E sta tutta la notte, tutta la mattina, cazzo, con quell'odore. Ragazzi, di uovo macio, guarda che se ne fugge, te lo dico io. Eia, chissà le fialette se in occasione del carnevale, no, che sarà febbraio, le stanno già mettendo in vendita. Ci dovrebbero essere comunque. Domani chiedo se ci sono, me le prendo. C'ho la siringa, quella cosa, prendo la siringa. Verso le 3-4 del mattino quando rientro, tiro tutto dentro a casa, la faccio stare tutto il giorno con la porta aperta, te lo dico io, ce ne sparo 6 o 7 di quelle fialette, te lo dico la scena, il vostro io. Ahia, ore saranno? Ma c'ho l'orologio. Alle 8 meno 5 sono, dai. Ancora presto. Io pensavo che ieri, quindi, infatti sono rimasto aspettarti. Io ho detto anche il cane, addirittura. Io ho detto, sono uscito tardi ieri sera. Sono stato le 7 e mezzo, le 8, una cosa già ho detto, ma detto Marco, mi non mi chiama più, non scendo ragazzo e non mi tenta quella, cazzo, ma come sono sceso, sono rientrato col cane, cazzo, sì, mi ha fatto lo scandalo, mi ha fatto. Ma dille che tu traslochi non ne stai facendo, come dov'è che li sei tutti questi mobili che si spostano continuamente? Ah, giù la sala cantare, cosa cazzo vuoi fare, cazzo, ma cioè, non aiuti tu, io detto solamente, guardi, io dico una cosa solamente, io mobili non mi sposto, l'unica cosa è detto, magari qualche sedia, c'aveva anche ragione, ma mobili proprio non ho risposto per niente. Sì, le voci mi ha fatto sembrava che è presente un pazzo, cazzo, uguale. Il marito ne aveva la faccia entrata, è rimasto zitto, non ha fabbricato bannuta, è rimasto con la faccia in giù, quindi vivo da di giù. E allora è un'esaurita lei, deve essere un'esaurita lei, deve essere, vabbè. Purtroppo quelli non sopportano nulla, anche quando c'è un minimo di tacco che fa rumore camminando, no? Problema suo, si mette i tappi nelle orecchie, capito? E appunto paghi se gli pone i tappi nelle orecchie, ma adesso domani io mi ha detto sono la Giovanna, se io faccio venire i bambini qua domani notte per sbaglio insieme a Giovanna, dico guardi che non dico neanche che guardi niente, faccio stare i bambini su insieme a Giovanna, io dico tempo 5 minuti, cazzo, sale su Giovanna, prende e ce la butta dalle scatole, dico io. Ehi, a te già ti difende Giovanna, che è il doppio di te. No, gli dice guardi che la proprietà dell'appartamento sono io, me l'ha dato mio fratello, quindi il mio fratello qui non abita più, abita primo piano, lo sai come ci rimane male. Gli dico che gli vengo in convulsione, quindi cambia casa, te lo dico io. E gli dico, guardi, se non mi va bene, cambi, si vende l'appartamento e si avvance, dice. A un certo punto. Questa è casa mia. Mio fratello abita giù, insieme a Giampiero, quindi se lo mette bene in testa da oggi in poi, non mi rompa più i coglioni, gli dirà, e se ne va a fanculo. L'hai spiegato con la tua solita eleganza, via. Sì, ma anche qua sopra ogni tanto spostano sedia, ma noi non facciamo tutto questo scandalo. E tu dille che se vuole stare bella isolata senza rumori se ne vada ad abitare in villa, lontano dal centro abitato, lontano da tutti, e così non sentirà nessun rumore. E paga le tasse, almeno. Cosa mi portavi domani a donne? Tu al minimo mi porti a pagasse. Perché no? Ci avevo fatto un giro domani, se vuoi. Se vuoi portarti a fare un giro, andiamo. Ce ne sono siti, fate guardare su internet. Ci facciamo un giro, ci facciamo. Quello che costa di meno, capito? Oh, ma le escort si fanno pagare, no? Basta che andiamo a Sassari Beccia. A Sassari Beccia andiamo lì al corso, ci portiamo profilattici, qualcuna già si agguanta. Al corso. Sono tutti in corso Vico, sono in corso Vico, se no le trovi lì al corso, questa donna non ripeta niente. Chiaro, se anche tu c'è uno che è sottomodulato, ha fatto iiii, chi è avanti? Chi è? Non vogliono entrare. Visto, li hai fatti fuggire tu, mi, col tuo torpiloquio. Io non ho detto niente, evidentemente ci vanno anche loro, cosa ne so io? Boh, scusami, io la verità era gratis, cosa ne so se questi vanno a pagamento? Antorello di Ossi non entra più in radio. Antorello QTC entra in radio se sei all'ascolto. Una volta entrava, e c'è il baracchino nuovo, non entra più. Break? Sì. Buonasera, Gilberto, da Ololai. Chi è te? Gilberto, di Ololai. Buongiorno, avanti, avanti. E va bene, controllo, per favore. Prova un po'. Sì, 1, 2, 3. 9:10, radio 5, qui a Bonova. 9:10. Guarda, aspetta, in questo passaggio, aspetta un attimo, adesso, in questo passaggio. Allora, da 9 si è passato a 9:10. 10 libri di guadagno, con linea da 100 watt. No, io prima ero con lo Spirit, 80 watt, adesso 5 watt. Beh, cosa cambia, scusate, ho 100, me ne sono accorto. Da 80 a 100 c'è una bella differenza. Vabbè, 20 watt di differenza, ma comunque me ne sono accorto che c'hai 100 watt di guadagno. Benvenuto anche a te da questa parte. Grazie, sono in vacanza adesso. Anche io sono in vacanza, io sono in pullman. Marco è in coso, di Alghero. In casa d'appoggio, non è neanche roba sua, meno male. E quindi, in mezzo ai negri, alle negre per chiato, non negri, alle negre, capito? C'è un circolo per anziani e per donne. Sì, beato lui. Buonasera anche a lui. Buonasera. Buonasera che te. Stavo un attimo a mettere un tirante all'antenna, al cinema che me ne scenda. Quello già non ti scende l'antenna, al limite la mazza può scendere, ma l'antenna no. E ben davvarata. Chi era? 9:20 da Bonorva, sì, magari. Ciao lo dire, fottiti di tu. Anche tu sei Alghero, cazzo, in mezzo a una casa circondata di donne, cosa vuoi di più, scusa, Lucano? C'è tutte queste donne che ti circondano, almeno quelle lavorano per te, prendono 40 euro per colpo, quindi se lui vuole partecipare, di fare lo sconto di 10 euro, non va bene. Tanto che lui a Bonolva c'aveva cosa tipo solo le pecore, le capre, quello che è, a posto di farsi quelle viene su da te e si fa un pecorone. Marco, ci ha fuggito, sì. No, sono qua, mi sto addormentando, Antonio. Uff. A meno che mamma non ci abbia messo i sonniferi nel pranzo. Se dormite a quest'ora, fuori il capo così. Si è appena svegliato, quando ti svegli a mezzogiorno? E ti addormenta di 5, non lo so io. Non penso che ti abbia messo qualche cosa da domani. No, ma sono uscito stasera, ero attivo, sono andato da Shan, c'era un po' di aboluto, troppo brusio, troppa gente, e così. E poi devo fare roba al computer adesso, dai. Forse mi devo cambiare lettore DVD di Wix. Cambiare tutto quel sistema, ce l'ho già da tanti anni, ma ormai è obsolengo. Come mai devi cambiare il lettore? Non mi leggi, fai MKV. MKV, quindi così il DVD per leggere quello. Cioè il DVD è una cosa, ma con la chiavetta USB ti puoi mettere film scaricati in XVID, DVD, altri formati, però l'MKV che sta è molto di moda adesso, non lo legge. E ce n'è uno che costa poco, il BDP 250 della LG. Quello è Blu-ray, DVD e poi legge tutti quei formati MP4, H264 e quale varie. E di qui te ne pigli quello che ho io, cosa vuoi dire che hai io? Io ho il DVD con attacco USB, lo provi, se ti va bene te lo tieni e te ne vai a, a farti un video come se il lavandino. Tanto io ne ho tre di DVD qua, quindi a un certo punto io non, quello che l'attacco, come dici tu, non me ne posso proprio più nulla, è nero. Se lo vuoi provare, vedi, due minuti te lo prendi. Ma di che anno è quello, scusa? Di quest'anno è. L'ho trovato, se lo vuoi sapere. L'ho trovato nel, nel negozio del cassonetto, tanto per il latte. In quella villetta che c'era qua, qua di fronte a casa mia, quindi evidentemente quelle ragazze polacche che c'erano usavano quella, quella cosa lì, capito? Per guardare il film porno, cosa cazzo ne so io. Ma comunque sia, è nuovo, nuovo, nuovo, compreso di telecomando e tutto. Ho trovato quello, compreso anche il CD, eccetera, eccetera. Figurati. Ehi, vabbè, Antonio, io chiudo, ok? Auguri per domani, buon anno, eccetera, eccetera. Sai che domani notte non inizi? Domani sera a tardi. Credo che siamo da mia zia, di nuovo. Già non ci voleva andare, mia madre invece l'ha telefonato e dice, ah, cosa fai per Capodanno? Potremmo venire da te. Senza interpellarmi, senza chiedermi niente, capito? Tutto l'ufficio. Ah, capito. No, a me mi ha chiesto Giovanna se, se volevo scegliere, ho detto la verità, non, non lo so ancora, gli ho detto. Anche perché a Natale l'ho passata giù da solo, cioè da solo, e Simona non è qua a casa, quindi non vorrei che il Capodanno magari se ne va assieme un conto. Oggi siamo partiti a aprile. Se no rimango qui e se la tocca il coso, ce la chiudo su avanti, al limite mi compro 4-5 lattine, quello che serve, la carne ce l'ho, c'ho l'agnello, eccetera, eccetera, e si posso comprare al limite un pacco di ravioli e basta, non mi serve altro. E passo la nottata, poi al limite scenderò giù e farò gli auguri. C'ho ancora più di 3-4 di pandoro, figurati, che non ho neanche mangiato. Ho mangiato un paio di fette e basta, non di più. Adesso vediamo un po'. Secondo me domani dovrebbe essere Alessia, mia nipote, giù a casa, dorme di giù. Adesso vediamo. Eia, e come viene col pizzino? Beh, sono stato a liberare il pizzino. Oggi ho visto che il gabinetto non è aperto, quindi aprirà domani sera fino a mezzanotte senz'altro. L'altare è aperto la vigilia, fino a, era aperto sino a mezzanotte e mezzo a una, mi hanno mangiato e festeggiato lì. Era troppo bello, era, è che me sono andato insieme a Giovanna prima, se no siamo divertiti. C'era questa cosa del fumo, che sembrava che avessero fumato sigarette 500 persone, figurati. Poi c'era uno che mi si è attaccato, oh, tu sei bravo, mi ha baciato le guance, tu sì che sei una persona seria, no, tu ma tu ti ha messo il gancio, Giova aiutami, e lei avanzati, mi diceva, e tu va a far culo tu e questo qua, gli ho detto. Siamo avuti addirittura di quelle birrette e poi siamo saliti su a casa e abbiamo preparato la cena, abbiamo cenato, l'ho tolto dal letto, ce l'ho messo nella sedia, poi ce l'abbiamo sollevato, grazie. A quanto sono riuscito a mettercelo sopra gli l'altra volta a Natale. Figura di due. Va bene Antonio, dai, ci sentiamo, ciao, buonanotte. Ciao, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto, dai. Ciao, domani, stai bene.